La mosca e la formica, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Dio, grande degli dèi, dicea la mosca in odio alla formica, che ardiva in grado gareggiar con lei. E come mai può darsi che un animal si vive e si minuscolo alla figlia dell'aria osi eguagliarsi? Io frequento i palagi e siedo a tavola con Giove e bevo il sangue dell'altare, mentre questa imbecille ti si cuzza, in 3 giorni non mangia una pagliuzza. Che fatica 3 giorni a trasportare! È forse a te concesso, piccina, di sedere in testa ai re e di volare in seno del bel sesso come è concesso a me? Io do spicco al candore naturale delle belle donnine innamorate che non credono d'essere acconciate senza almeno una mosca artificiale. Ma tu, sciocca, con i tuoi granai sempre una miserabile sarai. Or che avete adoprato la linguetta, proruppe la pacifica formica, è ben che anch'io vi dica che nei palagi siete maledetta, che il sangue dell'altare non è poi quel nettare che pare, che con egual discernimento e festa dei re volate e dei somari in testa, finché la troppa lunga seccatura morte improvvisa spesso vi procura. In quanto al dir che siete l'ornamento delle belle donnine civettuole, è un gioco di parole che poca gloria io vedo in verità, se un po' di taffettà a te somigli oppur somigli a me. E merito non c'è se della mosca il nome gli si dà. E non si chiama mosca i parassiti dei ricchi e dei conviti? Dunque, amica, e non far più la saccente, e non parlar sì forte, mosche e mosconi, razza maledetta, non stanno nelle sale della corte. E questo sol vi aspetta che al cader delle foglie finite poi di gel di fame indoglie. Tranquilla in casa mia, allora io men vivrò, con pena e con fatica per valli e per montagne non andrò, che la prudenza è di fortuna amica, vorrei che tu potessi in tal maniera la falsa gloria scerner dalla vera. Ma il tempo passa, il mio magazzino non empio a ciarle inutili e nemmeno la dispensa, or dunque addio. Fine della favola La mosca e la formica. Questa registrazione è di dominio pubblico.